A bordo campo di Dario Ricci. Annoveriamo per questo nostro primo incontro bilaterale Israele tra i paesi membri dell'Europa. E tu, Benjamin, sai bene, perché te l'ho detto tanti anni fa, che il mio più grande sogno, fin quando io sarò ancora un protagonista della politica, è quello di poter annoverare Israele come membro dei paesi dell'Unione Europea. Eh sì, con queste parole il premier Silvio Berlusconi ha salutato a Gerusalemme la possibilità di un ingresso di Israele nell'Unione Europea durante il recente viaggio compiuto proprio in Israele. In realtà Israele nell'Unione Europea già c'è da circa 30 anni per quanto riguarda lo sport, come ci racconta questa scheda. Nelle gare di calcio, basket, rugby e scherma, Israele partecipa già da tempo alle competizioni del vecchio continente. Nel basket, addirittura, questo avviene da più di un trentennio. Il Maccabi Tel Aviv, all'inizio degli anni 70, ma il primo trofeo lo conquistò nel 1977, contendeva la Coppa dei Campioni di basket a Ignis Varese e Simmental. Nel calcio, Israele partecipa alle competizioni della UEFA dal 1994. Da quell'anno entrò a far parte delle competizioni calcistiche europee, perché nella Confederazione Asiatica, di cui fa parte, sempre più squadre si rifiutavano di affrontarlo. Israele è europeo anche nella palla ovale. Fa parte della Confederazione Europea dall'ormai lontano 1978 e gioca nei tornei continentali minori. E schermidori israeliani partecipano anche alle competizioni europee di scherma. Insomma, dove la politica ancora non è arrivata, lo sport invece già ha compiuto dei passi importanti. Vero Vittorio Pavoncello, benvenuto a bordo campo. Grazie, sì, lo sport compie questi miracoli spesse volte, ping pong in Cina, altre situazioni dove lo sport fa dei miracoli. E in questo caso Israele è un paese asiatico, è diventato un paese europeo per permettere alle squadre nazionali israeliane di partecipare ad una qualsiasi manifestazione sportiva. Eh sì, allora, perché abbiamo ospite oggi Vittorio Pavoncello? Perché Pavoncello è il presidente della Federazione Italiana Maccabi, che riunisce tutte le realtà sportive ebraiche in Italia e che fa parte dell'organizzazione internazionale Maccabi, che è appunto una organizzazione sovranazionale. Dicevamo, dottor Pavoncello, un'affiliazione ad alcune federazioni europee, il basket, il calcio, ma anche la scherma, ad esempio, resasi necessaria perché in molti casi le nazioni asiatiche che si trovavano sul campo di calcio, sul parquet di basket ad affrontare Israele boicottavano questi incontri, vero? Ma non solo a livello continentale, diciamo, a livello asiatico, anche per quanto riguarda altre attività come le Olimpiadi, altri atleti che non fossero, che non le proprie federazioni non riconoscessero lo Stato di Israele, si sono rifiutati di gareggiare nel nuoto con atleti ebrei o israeliani, nella scherma, insomma. Purtroppo sono episodi che si verificano sempre più spesso, sempre per in un mondo, quello sportivo, dove queste barriere, soprattutto politiche e religiose, non dovrebbero esserci. Barriere che tra l'altro negli anni passati hanno dato vita anche sia a episodi molto gravi di antisemitismo, razzismo, e ne abbiamo ricordato rapidamente alcuni, ma anche episodi paradossali. Ricordo ad esempio, da appassionato di basket, quando ero ragazzo, le partite in Coppa Campioni tra Maccabi Tel Aviv e CSKA Mosca, no? E tra i due governi sicuramente non c'erano dei rapporti ottimi, e allora che cosa accadeva? Ci si trovava a Bruxelles, in due giorni si giocava sia l'andata che il ritorno, KGB e Mossad, che praticamente erano gran parte del pubblico, quando non si giocava a porte chiuse, risultato omologato e via così, no? Sì, io ho la fortuna di avere come amico Tal Brody, che era il capitano di quella squadra del Maccabi di Tel Aviv che sconfisse appunto a Bruxelles, e periodicamente mi rimanda il filmato di quella finale, che è sempre emozionante e sempre molto bella, anche se dobbiamo dire che i rapporti tra le federazioni sportive si stanno normalizzando, sono sempre soltanto quelli che sono un pochino i fondamentalisti, quelli che rovinano tutto il mondo, non solo il mondo sportivo, purtroppo. Lazio, sul prato verde vola. Lazio, tu non sarai mai sola. Dottor Pavoncello, in questi giorni si è tornato a parlare di sport, politica, Israele e Italia, perché è sbarcato proprio a Roma e proprio con la maglia della Lazio un campioncino in erba che arriva da Israele. Eilan Golasa, 18 anni, arriva dal Maccabi Haifa e indosserà la maglia della Lazio, tifoseria che tra l'altro insomma è quanto mai legata all'estrema destra, che in passato è stato spesso coinvolta in episodi di antisemitismo. So che lei, in virtù del suo ruolo, ha accolto proprio a Roma Golasa e gli ha fatto fare un po' un primo giro turistico, soprattutto nella Roma ebraica, no? Sì, sicuramente, ma io vorrei puntualizzare un passaggio che lei ha effettuato. È vero che la Lazio ha una tifoseria, diciamo, le frange più estreme legate alla destra, ma non è soltanto la Lazio. E poi vorrei sottolineare ancora una volta il grandissimo lavoro svolto da Claudio Lodito, presidente della Lazio, nel normalizzare questi rapporti e con noi, soprattutto dalla comunità ebraica, con lo sport ebraico. Credo che la mossa di Lodito sia molto coraggiosa, perché dimostra ancora una volta che non ci sono barriere religiose o razziste che impediscano l'arruolamento di un calciatore in virtù delle proprie qualità calcistiche e non per la propria religione o per il colore della propria pelle. Eyal Golasa è un grandissimo campione. Persone che hanno strappato il tesserino del Maccabi Haifa perché non ci sarà più lui, è un ragazzo giovanissimo. La Lazio ha fatto un grossissimo colpo da un punto di vista sportivo e lo ha fatto da un punto di vista proprio civile ed umano, perché se n'è fregata della tifoseria e ha accettato di prendere un calciatore israeliano. Per me merita ogni applauso il presidente Lodito, perché manifesta di un cambiamento in atto nella dirigenza laziale. Bisogna anche dire però, dottor Pavoncello, che a noi, che qualche anno sulle spalle l'abbiamo, è rivenuta subito purtroppo in mente la storia di Rosenthal, no? Del goleador che nel 1989 era stato ingaggiato dall'Udinese, goleador ebreo che però venne costretto di fatto a rifiutare l'ingaggio da parte dell'Udinese proprio da intimidazioni razziste. Ma lì fu la dirigenza dell'Udinese a rifiutare questo personaggio, a rifiutare questo grandissimo calciatore che poi andò a fare le fortune in Inghilterra, mi sembra, del Liverpool. La Lazio lo sta accogliendo, la comunità ebraica romana lo ha accolto. Credo che questi facinorosi, questi estremisti sono sempre molto meno, e spero vivamente che questo ragazzo venga giudicato per quello che farà in campo, non per chi è o per chi rappresenta. Lui rappresenterà la Lazio, dovrà essere un calciatore della Lazio, dovrà essere bravo in campo e per quello dovrà essere giudicato. Nel caso in cui così non fosse, noi saremo vigili, come siamo stati sempre vigili in qualsiasi, ma non solo per quanto riguarda gli atleti ebrei, per tutto quello che riguarda il razzismo nello sport, saremo vigili e saremo noi le sentinelle che non accada nulla di brutto, insomma. So che nel suo primo tour romano l'avete un po' preso per la gola, so dalle cronache che gli avete fatto fare il giro dei ristoranti e pasticcerie del ghetto e Eyal ha gradito parecchio. Ha gradito, ma non è una buona forchetta, è ancora abituato alla cucina israeliana, che è un po' particolare e non andrà d'accordo con quella romana. Però posso garantirvi che tra breve diventerà una buona forchetta, perché ha già assaggiato l'abbacchio in forno, tipico di noi romani, e una fettuccina, no, un rigatone con lo stracotto. Lo stracotto è un tipo di carne sempre tipico della cucina ebraica romana. E mi sembra che abbia particolarmente gradito, per cui consiglierei a Ballardini che controllasse l'alimentazione del suo calciatore nel tempo a venire. Fin qui abbiamo parlato di Eyal Golasa, ma la campagna acquisti invernale della Lazio riserva anche un'altra sorpresa, perché dallo Stoccarda è arrivato il centrocampista Thomas Hitzlsperger, 27 anni, tedesco, che oltre a essere un ottimo giocatore è anche una delle firme di punta del blog Sturmgemälde, blog tedesco, forum che segnala e combatte proprio i fenomeni di neonazismo. Tra l'altro, Hitzlsperger partecipa a incontri nelle scuole, sensibilizza sul tema. Insomma, Vittorio Pavoncello, arriva un campione israeliano, sì, ma arriva anche un prezioso alleato proprio nel rapporto con la difficile curva laziale e soprattutto nella lotta al razzismo e all'antisemitismo. È un segnale che i tempi stanno cambiando, se la Lazio acquista calciatori di un certo tipo, ma io andrei indietro con la memoria e, se non ricordo male, nei primi anni 80 c'era un calciatore che aveva queste caratteristiche, impegnato nell'antirazzismo e militava nella Lazio, non ebbe vita facile, mi ricordo, si chiamava Maurizio Montesi, che aveva le stesse caratteristiche. Io credo che se uno è impegnato nel sociale, se uno è impegnato contro per obiettivi nobili quali sono l'antirazzismo e l'uguaglianza tra le persone, io credo che vada accolto a braccia aperte, non credo che, ma purtroppo come si dice, la mamma degli scemi è sempre incinta. Io credo che arricchisca un pochino il panorama calcistico nazionale, che non è fatto solo di calciatori e di veline. Se hanno anche dei contenuti, hanno un pochino di cervello, non fa mai male. E senta, avete già pensato a coinvolgere Hitzlsperger in qualche iniziativa sociale, qualcuna delle vostre iniziative? Credo che sicuramente, se dovesse, speriamo mai, accadere un qualsiasi incidente, avremo sicuramente un alleato, ma cercheremo di coinvolgerlo. Sì, lei mi ha dato una buona idea, sicuramente di iniziative ne avremo molte e sicuramente troveremo il modo di coinvolgerlo. E allora grazie a Vittorio Pavoncello, presidente dell'Associazione Italiana Maccabi, e allora staremo a vedere questa nuova Lazio nel segno di Eyal Golasa e Thomas Hitzlsperger. Grazie. E allora grazie a Vittorio Pavoncello per essere stato nostro ospite a bordo campo, e staremo a vedere cosa accadrà in campo e fuori con questa Lazio, con questa strana coppia di nuovi acquisti. A bordo campo. Mario Balotelli, 19 anni, un italiano nero, un talento puro del calcio. Ma è un onore, non è una responsabilità. E poi la responsabilità che ho io ce l'hanno anche gli altri. Io non sono Maradona, non vinco da solo. Tutto quello che faccio è anche grazie alla squadra. Poi sì, se sto bene e stanno bene anche gli altri, c'è più probabilità di vincere. Parliamo ancora di calcio e razzismo. A bordo campo, essere come Mario Balotelli, beh, è il sogno di tanti ragazzi che si avvicinano al calcio, di tanti ragazzi anche che come Balotelli hanno la pelle scura ma sono italiani a tutti gli effetti, ed è il sogno anche di chi calcia il pallone in modo poco più che amatoriale, anche sui campi della prima, seconda, terza categoria, perché chi è che non sogna un gol alla Balotelli? Oggi scendiamo, abbiamo parlato prima di cosa avviene sui campi della Serie A, beh, scendiamo nella seconda categoria, campionato di calcio umbro. La partita di una settimana fa è la Bosico Terni contro il Castel Todino, partita che si svolge sostanzialmente in modo regolare fino a un certo punto, quando un calciatore di colore del Castel Todino comincia ad azzuffarsi con un suo avversario e questo a un certo punto gli dice: vattene, sporco negro. A quel punto Maurizio Venturi, presidente del Castel Todino e ospite oggi a bordo campo, che succede? Ci racconti un po' questo episodio. Giocavamo nel campo della Bosico a Terni, è una partita come in genere sono tutte, cioè soprattutto a questi livelli, dove il calcio dovrebbe essere inteso come una passione e quindi uno svago, un'ora e mezzo da passare insieme fra amici per divertirsi, poi contenti a prescindere dal risultato, tutti a casa a fare ognuno la propria vita, perché quando parliamo del professionismo siamo proprio a livello dilettante. E niente, dicevo, una partita tranquillissima, fino a praticamente 10 minuti dal termine, quando in un contrasto di gioco fra un nostro calciatore di colore, Narciso, e un difensore dell'altra squadra, il difensore praticamente è crollato a terra, l'arbitro non è intervenuto perché diceva probabilmente non ha visto nulla o non ha probabilmente ritenuto opportuno di intervenire nell'azione. Solo il fatto increscioso è che il giocatore della Bosico si è alzato, rivolgendosi verso il nostro ragazzo, l'apostrofato con uno sporco negro. A quel punto lei, da presidente, non ci ha visto più, come si dice. Quella è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. In questo senso, siccome non era il primo episodio avvenuto quest'anno, allora è bastato uno sguardo fra noi dirigenti che eravamo in campo e la squadra, cioè quindi i compagni, i ragazzi, i compagni di Narciso, e abbiamo deciso di abbandonare il campo. Quindi borse alla mano, 10 minuti dalla fine, ci si rimette la giacca, tute, rapida doccia e tutti a casa, perché questo non è calcio. Sì, esatto, questo non è calcio. Consapevoli, ecco, fra altre cose, di che per la giustizia sportiva noi avremo la sconfitta a tavolo, la classica sconfitta a tavolino. Speriamo soltanto nel giudice sportivo che non appesantisca la cosa, cioè con multe e punti di penalizzazione, perché possiamo rischiare anche questo, perché come detto nella lettera aperta che la società ha fatto domenica mattina, noi non andiamo alla ricerca di ribaltamento del risultato, ripetizione della partita, cioè per noi la partita, il punteggio non interessa la partita, ma con questo gesto volevamo informare e sensibilizzare l'opinione pubblica su questo argomento, che è molto pubblicizzato a livello professionistico, ma purtroppo accade anche nelle categorie dilettanti. Eh sì, perché poi a livello professionistico ci sono i cori, ma ci sono anche organi giudicanti che provano a mettere degli argini, ci sono opinionisti, attenzione mediatica. Quello che accade tutte le domeniche sui campi di periferia invece rischia di passare sotto silenzio. Non era la prima volta che Narciso Egwu, ragazzo di origine nigeriana ma italiano a tutti gli effetti, come il fratello Emeka, Narciso ha 19 anni, Emeka 25, giocano entrambi nel Castel Todino, sono figli di un medico arrivato anni fa dalla Nigeria per studiare medicina in Italia, poi scomparso, e che ha lasciato qui nel nostro paese 4 figli, tutta la sua famiglia. Non era la prima volta, come diceva Presidente Venturi, che venivano offesi per il colore della loro pelle. Addirittura in un episodio particolare lei stesso ha ricordato che ci si è messo di mezzo anche un arbitro. Sì. In quel caso particolare l'arbitro, in un'azione, in una fase in cui allontanava col doppio cartellino giallo, quindi veniva espulso il fratello di Narciso, Emeka, lo apostrofava con "vattene a casa sporco negro". Questo è ancora un fatto ancora più eclatante. Tra l'altro adesso si è aperta anche un'inchiesta della Federcalcio, sia sull'episodio che ha coinvolto Narciso, sia su quest'ultimo episodio, perché se chiaramente il fatto che offese di questo tipo possano coinvolgere i calciatori è già grave di per sé, altrettanto se non più grave è il fatto che sia proprio il giudice di gara a esprimersi in questo modo, no? Sì, perché poi soprattutto a livello cioè la differenza che c'è fra il professionismo e il dilettantismo è proprio questa, cioè fino alla Serie C, quindi campionati professionistici, e sembrerebbe perlomeno che debba intervenire sul normale svolgimento della partita in questi casi il responsabile della pubblica sicurezza. Nel campionato dilettanti invece la persona che l'unica persona, l'unico soggetto che può intervenire è l'arbitro, il direttore di gara. Invece trovare un arbitro che si comporta, esce con quelle battute, cioè sciocche, è stato il colmo. Cioè, ma sapevamo che facendo queste denunce andavamo anche incontro, diciamo, alla, all'apertura dell'indagine da parte della Procura federale. Intanto ci ha raggiunto al telefono Emeka Egwu, 25 anni, fratello di Narciso, entrambi giocatori del Castel Todino. Beh, Emeka, immagino davvero una brutta esperienza quella di quest'ultima partita contro la Bosico. È passato qualche giorno, come vi sentite, te e Narciso? Noi siamo tranquilli, soprattutto per il fatto che comunque sappiamo che queste persone sono poche, innanzitutto, e praticamente sono date molto dall'ignoranza a queste cose, non tanto da... cioè queste persone non sono poi veramente razziste, penso, nella maggior parte dei casi. Magari solo per ferire, per colpire la persona lì in un certo momento. E è questo un po' quello che penso, nel senso che, cioè, dispiace, perché lì per lì è chiaro che dispiace, eh? Immagino. E senti, con quell'arbitro che ti ha espulso e poi ha apostrofato come sporco negro vai a casa, vi siete più risentiti da quell'episodio? No, dopo, ho aspettato dopo la partita e comunque si è scusato, ha detto comunque ha spento il cervello, forse non si ricordava, ha detto nemmeno quello che aveva detto, e niente, si è scusato. Se ne parla spesso, se ne parla tutte le domeniche, no? Di questi cori contro Mario Balotelli e contro molti altri giocatori di colore che calcano i campi della nostra Serie A. Tu che questa situazione di grave discriminazione, di offese razziste, la vivi invece sui campi della provincia, sui campi della seconda categoria umbra, insomma, a stretto contatto con chi ti offende, con i tifosi che sono a un metro dalla linea di fondo, che sensazione ti lascia questa vicenda, vista appunto la situazione in quelli che sono i campi della nostra Serie A? Beh, vabbè, è chiaro che in Serie A è molto amplificato come cosa, e magari ci sono molte più persone che fanno queste cose. Nei campi nostri ci può essere uno o due persone, il resto invece magari gli vanno contro. Certo, con proporzione sicuramente anche in Serie A sarà la stessa cosa, perché magari ci sono 100 persone che lo fanno e 2, 3, 4, 5 mila gli vanno contro. Te la senti di mandare un messaggio a Mario Balotelli? Un piccolo suggerimento, come reagire nel modo più intelligente? No, deve stare tranquillo, giocare a pallone perché è forte e stare anche, perché sono un po' più grande di lui. Deve entrare solo a giocare, anche perché lui lo fa come mestiere, è anche diverso, è il caso nostro dal suo, perché noi lo facciamo per hobby, lo facciamo praticamente dopo il lavoro, dopo lo studio, comunque è solo per passione. Lui sì, sicuramente è per passione, ma è anche un lavoro, e dunque deve stare tranquillo e fare il suo lavoro. Insomma, un gol è la migliore risposta che può dare un giocatore. L'importante è che non segniamo la Roma. Grazie ad Emeka Egwu. Presidente Maurizio Venturi, presidente del Castel Todino, qualche considerazione finale ancora insieme? Ma guardi, a questo livello noi, ripeto, abbiamo fatto questa denuncia, cioè questa lettera aperta, proprio sperando di sensibilizzare la gente, cioè l'opinione pubblica. Cioè, guardate, noi abbiamo fatto un atto forte, avete visto che cosa è uscito fuori da questa denuncia? State buoni, cioè trattate i nostri ragazzi o i ragazzi anche di altre squadre, perché io ho avuto anche telefonate da colleghi che hanno ragazzi di colore e si sono complimentati con la nostra società perché ha avuto il coraggio di fare questa denuncia, perché anche a loro accadono le stesse cose. E quindi noi speriamo soltanto di aver sensibilizzato un po' le persone, perché io non penso che l'Italia sia razzista. È il solito, tra virgolette, imbecille della domenica che si diverte, cioè pensa di essere bravo apostrofando dei ragazzi con quelle frasi. Senta, però le chiedo, quando vede i classici dibattiti in TV dopo i cori razzisti della domenica che cominciano a disquisire questo è razzismo, questo non è razzismo, questo è simile razzismo, questo per lei è razzismo, Presidente Venturi? Secondo me certo uscite sì. Possono dopo fare tutte le scuse possibili, immaginabili, addirittura riporto la risposta che mi ha dato l'arbitro quel giorno. Io ho detto quello, ma mi scuso, io sono uno che vado sempre nei paesi africani, ma che cosa c'entra? Tu sei uscito con una frase infelice, cioè tu ti sei rivolto con a un ragazzo che aveva un colore della pelle diverso dalla tua con quella frase, ma perché? Perché? Quindi per me in certi episodi, quando ci sono certi episodi, certe frasi, è razzismo, anche se involontario, quello è razzismo. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Filippo Aureggi in regia, vi ricordo che potete riascoltare A Bordo Campo come tutti gli altri programmi di Radio 24 Il Sole 24 Ore dal nostro sito internet www.radio24.it e scriverci alla nostra mail abordocampo@radio24.it. L'appuntamento è come d'abitudine per domenica prossima, sempre alle 14.30, sempre A Bordo Campo. Un saluto da Dario Ricci.